Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, grazie per essere con noi. In regia abbiamo Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi. Come sempre i titoli del nostro sommario. Andiamo, siamo pronti. Professioniste realizzate e mamme serene. Un sogno possibile? Le due Italie della sanità. Il Nord va avanti, il Sud arranca. I dati della sesta edizione di Osserva Salute. Amici di cuore. Donna e lavoro, a voi cosa viene in mente? Conquista o rinuncia? Realizzazione di sé o un compromesso continuo per tenere insieme i pezzi di un puzzle che sembrano provenire da due scatole diverse? E qual è il limite in cui il lavoro al femminile, che fa bene indubbiamente alla vita di noi donne, rischia di trasformarsi in una trappola, in una pericolosa fonte di stress che mette a repentaglio il nostro benessere psicofisico? 800 24 00 24, il nostro numero verde è già attivo, aspetto già le vostre testimonianze, donne che lavorano alle prese con casa, partner, figli, suoceri, tutto da conciliare, a volte la coperta sembra un po' troppo corta. 349 238 6666. Questa settimana, in preparazione della festa della donna, Essere Benessere veste un particolare fiocco rosa in due puntate. Oggi e giovedì cercheremo di esplorare, con l'aiuto di tanti esperti e naturalmente con il vostro aiuto, il mondo del benessere di noi donne. Lo faremo a 360 gradi. L'occasione oggi ce la fornisce il mensile Psicologie, che ha appena pubblicato i risultati di un sondaggio che svela scelte, aspirazioni, difficoltà e strategie tutte al femminile per conciliare mondo lavorativo e affettivo. Qui in studio un piccolo gineceo, abbiamo il direttore di Psicologie, quindi saluto Lucia Rappazzo, benvenuto direttore. Grazie, buongiorno a tutti. Un nome che non deve trarre in inganno: Psicologie è un femminile che mette al centro la donna in tutti i suoi aspetti. Certo. Questa è una buona definizione. Siamo assolutamente d'accordo. Sì. Con noi naturalmente c'è anche la dottoressa Anna Zanardi, direttore scientifico di Psicologie. Buongiorno a tutti. Benvenuta. E ci aiuterà anche la dottoressa Chiara Ferrario. Buongiorno. Psicoterapeuta. Benissimo, si sta bene tutte donne. Assolutamente sì. Direttore, come mai questo sondaggio? Che cosa vi ha spinto a capire se il mondo del lavoro è un'opportunità di benessere per la donna o invece una fonte di stress? Il fatto che in redazione siete in prevalenza donne, ve l'hanno suggerito le vostre ascoltatrici con le loro lettere, so che ne arrivano tantissime, chiedono il vostro aiuto, il vostro intervento. Da che cosa è nato, insomma? Ma ce l'ha suggerito soprattutto l'osservazione della realtà. Tutti noi abbiamo presente il fatto che per le donne, per qualunque donna, trovare, come tu dicevi prima, un equilibrio, un punto di equilibrio per l'appunto tra tutte le varie e i vari ruoli che ci vengono proposti e che dobbiamo giocare è fondamentale per la realizzazione di noi stesse e soprattutto per il nostro benessere. Da questo dato di fatto siamo partite, anche in vista del fatto che gli ultimi dati Istat dicono che moltissime donne dopo il primo figlio abbandonano il lavoro, e probabilmente non per scelta ma perché hanno dei problemi in questa conciliazione. E allora abbiamo voluto esplorare, appunto sempre nell'ottica, come tu dicevi, del benessere femminile, se c'è invece un possibile punto di equilibrio. Vediamo, io invito subito le nostre amiche da casa a chiamarci 824 0024 per raccontarci se questo punto di equilibrio l'hanno trovato, lo stanno cercando, l'hanno cercato ma poi l'equilibrio è andato di nuovo a pallino. E allora io vorrei chiedere subito alla dottoressa Zanardi se può fornirci una breve sintesi dei principali dati emersi da questo sondaggio. La cosa confortante che è emersa è che ormai il lavoro è per il circa 60% delle donne una scelta, e anche fra il 50 e il 60% le risposte sono state di grossa soddisfazione, di grossa gratificazione, quindi è una scelta fatta per il proprio piacere. Resta il punto critico per la maggior parte delle donne nel momento in cui nasce un figlio, e il distacco dal figlio mette in crisi questa scelta che si fa anche per soddisfazione e realizzazione personale. Questo è un po' dovuto al fatto che manca una cultura legata a quanto sia importante realizzare se stessi per poter poi trasmettere gioia di vivere ai figli, e quindi questo forse è l'elemento sul quale fare più cultura e più innovazione. Quali sono le fatiche, dottoressa Zanardi, che le raccontano anche le donne? La fatica è quella di dare un senso al proprio distacco dal figlio, questo spesso perché non si ha il linguaggio, la capacità di comunicare col bimbo l'importanza per se stesse e anche per lui, quindi del fatto che la madre è felice e va verso un'attività che la gratifichi. E poi c'è la fatica di conciliare comunque oggettivamente, o quantomeno oggettivamente fra virgolette, il tempo con sì, i doveri di casa. Bisogna famiglia, diventare eccetera, acrobate. Nicoletta, volevo aggiungere una cosa sorprendente, è che spesso è più difficile questa conciliazione per donne che hanno un impegno professionale alto e che quindi in qualche modo non lavorano per necessità economica, ma lavorano per il puro, come si diceva, piacere tra virgolette di realizzarsi, perché questo toglie da un certo punto di vista l'alibi, se vogliamo così chiamarlo, del doverlo fare il lavoro, che aiuta in qualche modo, perché non ci addossa totalmente la responsabilità della scelta. Vorrei chiedere un parere alla dottoressa Ferrario, in quanto come psicoterapeuta ed esperta di formatrice è secondo me una persona, un esperto a cui noi possiamo fare riferimento. Le donne sono in cerca di questo equilibrio, alcune lo trovano, alcune lo trovano subito, altre rinunciando nel tempo, ma rinunciando a una parte di sé. Il percorso può essere molto difficile, come si possono aiutare le donne? Beh, sicuramente per esempio la nascita di un figlio, che diciamo che è il momento davvero critico per una donna che si trova a dover ritrovare l'equilibrio, è un momento che richiede una grande riprogettazione. Non vuol dire per forza una rinuncia della propria carriera o del proprio impegno professionale. Vuol dire una riprogettazione, una riorganizzazione del proprio tempo, e questo lo si può fare fermandosi, cosa che il bambino aiuta a fare, e cercando di riorganizzare un poco la propria attività e riflettere, fare un po' un bilancio della propria vita, non so come dire, e accogliere anche quelli che sono i nuovi spazi di creatività che il bambino e di sperimentazione di sé che il bambino richiede di fare. Quindi diciamo, se la nascita del bambino è di per sé un momento che richiede una fermata nella propria vita, sicuramente ci si può prendere questa come un'opportunità per fare appunto un bilancio e riscommettere su alcuni ambiti che sono stati in qualche modo che si possono scoprire, ecco, per la prima volta che si possono venire a scoprire. Io vorrei iniziare a leggervi qualche messaggio. Sono felice di occuparmi della mia bimba che ha 2 mesi, ma mi brucia davvero il fatto che mi abbiano lasciata a casa dal lavoro perché ero incinta. Ecco, anche una donna che lavora e che progetta e pensa di diventare mamma ha questo timore, cioè che andare a parlare col capo, andare dal direttore, dire in questo caso aspetto un bambino, in questo implichi comunque un approccio diverso, ti valutano in un altro modo, progetti che facevano su di te vengono fermati. Direttore. Sì, come ti dicevo prima, Nicoletta, è un dato di fatto questo, il numero di donne che sono costrette, e credo non lo facciano tutte per libera scelta, ad abbandonare il lavoro dopo il primo figlio in Italia è molto alto, è molto diverso tra l'altro da quello di altri paesi come la Francia, che ha una cultura invece del doppio ruolo molto molto più profonda, molto più antica, e quindi c'è molto da lavorare in questo settore, in questo campo. Il nostro sondaggio, il convegno che domani ci sarà, è proprio una goccia, se vuoi, nell'oceano, vuole essere una goccia nell'oceano delle cose da fare. Io vorrei riprendere appunto alcune delle domande del vostro sondaggio. E quanto la vostra famiglia, quindi figli e partner, supporta la vostra scelta lavorativa? Su questo possiamo ragionare, perché ci sono donne che lavorano per necessità. Ci sono donne che arrivano a dei posti di grande professionalità e quindi, come dicevi tu, direttore, no? C'è quasi un senso di colpo. È più difficile conciliare. E quindi questa è la prima domanda che mi piacerebbe ridiscutere insieme anche con le nostre ascoltatrici. E anche se, secondo voi, il modo migliore per conciliare vita privata e lavoro è tenerle assolutamente distinte oppure impastarle insieme, cercando di trovare, no, quell'equilibrio a cui tutti tendiamo. Ho un lavoro meraviglioso, ci scrive Paola da Bologna, che mi impegna molto mi appassiona molto, ma ogni volta che mio figlio di 2 anni ha la febbre, per me uscire di casa al mattino è uno strazio. Dottoressa Zanardi. Beh, innanzitutto si possono spiegare le uscite di casa, e anche se il bambino è molto piccolo, ha 2 anni e mezzo, ci sono modi di trasmettere forza e sicurezza anche con l'assenza fisica. Sì. Questa è una cosa a cui siamo poco abituati, cioè nella nostra cultura pensiamo che la presenza fisica sia sufficiente a garantire una serie di cose ai nostri figli, in realtà non è così. E quindi è importante andare un po' al di là di quelle che sono le consuetudini culturali alle quali siamo abituati, che sono poi ancora arretrate e portano per esempio a una discrepanza fra quello che la donna ha bisogno nel proprio mondo familiare e nel proprio mondo lavorativo, no? Sicuramente le leggi per esempio in Italia sono ancora arretrate rispetto a un supportare la donna che diventa madre, quindi rendersi conto che quello che noi possiamo fare individualmente nei confronti della nostra famiglia è un po' più avanzato di quello che ci circonda nel contesto culturale e sociale. Gabriella ci chiama dalla provincia di Milano, all'824-0024 si aggiunge al nostro gineceo che si allarga. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a tutte. Niente, io volevo portare la mia esperienza. Io ho 45 anni, sono mamma di 3 figli e lavoro a tempo pieno, ecco, con grande sacrificio, però con grande soddisfazione, perché primo, vabbè, il mio lavoro mi piace, per cui mi dà una grande soddisfazione. Sì. Però ecco, l'impegno è effettivamente veramente tanto, perché sia economico, perché i miei figli hanno fatto tutti l'asilo nido da subito praticamente, perché l'impegno lavorativo mi obbligava a fare questo, e anche di tempo, perché poi il mio tempo libero con loro cerco sempre di impegnarlo in maniera positiva e costruttiva, ecco, per cui ecco, c'è un impegno proprio al massimo, però ne sono veramente veramente contenta, ecco. Spero di trasmettere, sì, questo ai miei figli. Gabriella, e l'ha trasmesso anche a noi. Io volevo un commento dalla nostra dottoressa Ferrario. Sì, infatti, credo che... Una mamma equilibrista. Una mamma equilibrista, ma che ed è equilibrata. Ed equilibrata, e che credo questo sì davvero lo trasmetta ai figli. Nel senso che, come diceva Gabriella, spero questo di trasmetterlo ai miei figli, ne sono convinta, perché i figli hanno come modello ovviamente le figure significative della loro vita, quindi questa mamma soddisfatta del lavoro, che va, esplora il mondo e conquista il mondo, è sicuramente un bel esempio di apertura a ciò che accade, di disponibilità, di impegno, e sono convinta del fatto che sia sicuramente anche i figli ne trarranno vantaggio. Ecco, una cosa che volevo aggiungere a ciò che diceva la dottoressa Zanardi, sottolineare di ciò che diceva, è che una mamma che esce e che lascia i figli a casa, sì, non è che si assente. Ciò che può trasmettere e ciò che ha trasmesso in qualche misura è comunque la sua presenza, c'è una presenza mentale della mamma che rimane a casa. Io devo dire che da mamma trovo che sia vero, ma in parte. Senso di colpa. Ecco, no, sente. No, io non ho sensi di colpa, però penso che i figli abbiano bisogno anche della loro mamma, del tempo della, certo, loro mamma, di andare. Sì, beh, si tratta di trovare, ecco, il giusto buon senso. Il giusto buon senso, poi a seconda qualità delle... e quantità di tempo. Esatto, e poi, certo, a seconda dell'età dei bambini. A questo proposito voglio leggervi un messaggio, che è quello di Mara, che ci scrive: molto più difficile per me lavorare con figli adolescenti, perché con la fine delle babysitter nessuno può aiutarmi e loro sono ancora fragili, forse di più. Ecco, cioè, bimbi piccoli, problemi piccoli, bimbi grandi, uno dice: lascio un adolescente a casa, vado a lavorare, non posso controllarlo. Magari non lo si controllerebbe neanche stando a casa, soprattutto oggi i ragazzi ne sanno una più del diavolo, ma io mi capisco capisco assolutamente il messaggio di Mara e in parte lo condivido, perché certo, in effetti in un momento in cui i ragazzi sono maggiormente esposti a dei rischi, entrano nella società con tutto quello che la società può offrire di buono ma anche di cattivo, una mamma si sente un po' scoperta. Dottoressa Zanardi, sbaglio? No, condivido l'esperienza, anche perché ho un figlio adolescente, quindi credo la costruzione del rapporto avvenga veramente gradualmente e la paura del controllo ci resterà sempre. Ma questo non dipende dal fatto che uno lavori o non lavori, ci certo, sono poi una serie di cose che noi spostiamo sul lavoro perché ci sembra l'ambito più concreto sul quale poter proiettare tutte le nostre paure. In realtà anche una madre che sta a casa tutto il giorno avrebbe comunque lo stesso timore e probabilmente correrebbe più o meno gli stessi rischi rispetto al figlio adolescente, perché il figlio adolescente non sta in casa con la madre casalinga, per cui si tratta veramente di capire come si è costruito il rapporto di fiducia col proprio figlio. E secondo me l'unica chance che abbiamo è il dialogo, non conosco molte altre strade, cose, no. È quello che premia. Maria Paola ci chiama da Milano. Maria Paola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Io devo essere un caso psichiatrico. Perché? 30 anni fa, al massimo di una carriera, premetto, sono entrata in banca a 19 anni e a 30 anni li ho salutati, perché essendo stata una donna rampante 30 anni fa mi facevo pena da sola, perché quei tempi lì, quando una donna era a quei livelli lì, doveva insomma tirarsela, tailleur, insomma, ecco, io mi sono realizzata perché ho girato il mondo, ho fatto le vacanze in aereo quando gli altri andavano a Varazze, poi improvvisamente ho capito che insomma ero una povera donna, mi rimaneva poco della mia femminilità, forse erano i tempi. Li ho mandati tutti a quel paese e ho fatto la casalinga di Voghera. Non sono stata una casalinga mai. Ecco, l'unica cosa che devo dare atto, che è il bello di essere a casa con la mentalità però di una donna quadrata, mio figlio, ecco, viveva nelle librerie perché lui desiderava già da piccolo, perciò noi al pomeriggio si andava nelle librerie, poi aveva il suo gruppo, si giocava, però io sono sempre stata molto libera di carattere perché vivevo non da casalinga a pulire dove era pulito, ecco. In mezzo a una famiglia di una donna rampante, il marito ingegnere, il figlio ha voluto scrivere e scrive ancora tuttora, ha fatto il giornalista con grandi sacrifici, però c'ero dietro io a difenderlo, a dargli una mano quando si preparava, perché ha dovuto fare anche oltre certo, la scuola normale delle specializzazioni, insomma, come necessario. Ma è stato un paradiso lasciare quella banca, un paradiso, la libertà. Poi abito a Milano, figuriamoci, una tante voglia di vedersi una mostra, una Maria Paola, insomma, soddisfatta, tolto il tailleur ed è riuscita a realizzarsi come mamma. Lei dice non faccio la casalinga, io ho grandissima stima per le casalinghe, perché a parte che lo siamo tutti noi, ma voglio dire, è un lavoro che spesso non viene riconosciuto e infatti si dice cosa fai, non fai nulla, stai a casa. Io su questo mi batterò sempre, certo. Ma direttore, a te la parola. Ma io credo che Maria Paola abbia detto una parola chiave nella sua testimonianza, che è libertà. Il lavoro non deve essere o non dovrebbe essere un obbligo, come non dovrebbe essere un obbligo rimanere a casa se si ha un figlio. L'ideale a cui tutti puntiamo è essere liberi di scegliere, perché non c'è un principio valido per tutti. Ognuno ha il proprio punto di equilibrio e ognuno ha il diritto di cercarlo senza costrizioni esterne. Così come Maria Paola ha trovato il proprio, certo, rimanendo a casa. Io volevo chiedervi una cosa proprio da donne, tanto che siamo tra di noi, no? Lavoro, famiglia. Noi dove la prendiamo l'energia? Perché tutti arrivano, quando noi arriviamo a casa dopo una giornata di lavoro, tutti ti scaricano il loro zaino addosso, no? I figli che hanno preso un brutto voto a scuola, il marito che è stanco perché è un momento difficile, ti chiamano i genitori, anche loro. Ecco, e noi bene o male dobbiamo auto rigenerarci, auto ricaricarci. Allora volevo chiedere alle amiche da casa se mi aiutano a capire dove, no? Dove prendono le energie, chi le dà, ce le troviamo dentro di noi, sono le amiche? Spesso, soprattutto c'è un'età, no, nella vita delle donne in cui le amiche diventano fondamentali, dei la veri pilastri, sì, una sorellanza, quindi tra noi donne, ma io vorrei chiedere chi vi aiuta ad andare avanti positivamente? 824 0024, abbiamo in linea con noi Simona che ci chiama da Roma. Buongiorno Simona. Sì, buongiorno. Salve, mi sentite? Benissimo Simona, mi scusi, le faccio subito la domanda per rompere il ghiaccio, gliela faccio io. Lei dove trova, chi la ricarica? Mi ricarica la voglia di fare. Bene, quindi ci autoricarichiamo. Sì, esattamente. La mia energia è sempre stata tanta, sono una donna libera, lo sono sempre stata, e sono nata così e per cui ho fatto sempre delle scelte. Poi ho scelto di avere un figlio, quindi una bimba che adesso ha compiuto un anno e svolgo un'attività di libera professione, e non le dico le difficoltà che bisogna superare ogni volta perché ci troviamo sole. Simona dice difficoltà, noi tra poco andiamo ai mercati, ma una difficoltà che ha affrontato e che è riuscita a superare proprio di recente, qual è stata? Ma diciamo la logistica innanzitutto, quindi il tempo di qualità, che non si sa mai se è veramente di qualità, perché noi, cioè io mi illudo che sia di sì. qualità, il fatto di non creare dei danni psicologici, ma dare a una bimba piccola delle insicurezze, e, però appunto con dei tempi ristretti, perché sì, il lavoro... Il lavoro porta via molto, ci dà ma ci porta via. E siamo tornati insieme, ma prima di continuare a parlare di noi donne, del nostro lavoro che a volte ci costringe a vere e proprie acrobazie, lo sappiamo bene, ma senza dubbio ci dà anche molti stimoli e opportunità di crescita, ci colleghiamo col professor Walter Ricciardi, che è direttore dell'Istituto di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, che in questo momento è impegnato in una conferenza ad illustrare i risultati della sesta edizione del rapporto Osserva Salute, un'analisi approfondita sullo stato di salute degli italiani e su quello della qualità dell'assistenza sanitaria nelle regioni italiane. Professor Ricciardi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Professore, iniziamo un po' con, direi, la pagella degli italiani e le chiederei di iniziare con il voto di condotta, che è lo stile di vita, quindi un voto che misura le nostre abitudini ma anche il comportamento in termini preventivi. Come stiamo andando? Possiamo dire che è un voto un po' con riserva, nel senso che tutti gli italiani stanno un po' peggiorando i propri stili di vita, quindi su questo il voto è un'insufficienza, ma comunque vicina alla sufficienza, perché per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda l'alcol, per quanto riguarda l'attività fisica, per quanto riguarda il fumo, un po' tutti gli italiani stanno peggiorando i propri stili di vita. Professore, ma allora in quali materie siamo promossi e in quali invece rischiamo di essere rimandati a settembre? Ma direi, ecco, a questo punto dobbiamo fare dei distinguo, perché dobbiamo parlare delle singole realtà regionali del paese, perché ci sono sicuramente delle regioni del paese, purtroppo stanno quasi tutte al centro-nord, dove possiamo dire che si è promossi in certi casi addirittura con ottimi voti, e invece ci sono delle regioni del paese dove purtroppo la bocciatura è abbastanza forte. Ma quello che preoccupa soprattutto è che in questi appunto anni che abbiamo lavorato a studiare un po' le condizioni di salute ma anche la qualità dei servizi, non sta praticamente cambiando niente, anzi la distanza tra le regioni più virtuose e quelle un po' più birichine si sta aumentando. Quindi io volevo proporre anche una pagella all'assistenza sanitaria per capire in 8 anni di transizione federalista, dall'accordo dell'8 agosto 2001, che cosa è cambiato, e possiamo dire che è aumentato il divario tra nord e sud? Sì, direi che comunque 14 regioni italiane oggi si trovano in buone e in certi casi in ottime condizioni. Sono le solite grandi regioni del nord, ma anche molte regioni del centro, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, sono tutte regioni che riescono in qualche modo ad affrontare, ecco, questo comportamento un po' birichino degli italiani che fa aumentare i fattori di rischio, però in qualche modo offrono una rete di servizi che sia per la diagnosi precoce ma anche per la terapia. E non dappertutto, è la prevenzione, langue un po' dappertutto, però sicuramente anche per la prevenzione riesce a tenere a bada questi fattori di rischio. E niente, poi ci sono alcune regioni, le tre paradigmatiche un po' sono il Lazio, la Campania e la Sicilia, che sono regioni grandi, regioni che non si sono mosse per tempo nel recente passato e che oggi sono in una situazione di grandissima difficoltà. Arrancano un po'. Quindi, professor Ricciardi, alla luce di tutti questi questi dati? Un consiglio, un messaggio? I professori mettono sempre un'indicazione per migliorare. Guardi, la preoccupazione nostra è che un federalismo, come posso dire, non temperato, cioè non con meccanismi che in qualche modo cerchino di accorciare queste distanze, è un federalismo destinato a premiare ulteriormente le regioni che già si comportano bene e a lasciare indietro, ma indietro in questo caso non significa un voto cattivo, indietro in questo caso significa morire prima, significa ammalarsi, significa avere qualità di vita peggiore, significa avere anziani non assistiti, significa avere disabili abbandonati a se stessi, quindi quadri che in qualche modo possono configurare, ecco, non una semplice così bocciatura o rimandatura, ma un vero e proprio dramma sia personale che della collettività. Per cui noi ci auguriamo che, ecco, il governo centrale prenda atto che bisogna in questo caso agire e attivi tutte le misure per cercare di accorciare queste distanze, altrimenti avremo regioni sempre più forti e sempre più efficienti e regioni sempre più indietro. Professor Ricciardi, la ringrazio per essere stato con noi, per averci dato questi dati proprio nel cuore della conferenza. Buona conferenza, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Donne Lavoro, siamo tornati insieme, 824 0024, in studio con me il direttore di psicologia Lucia Rappazzo. Si dice direttore perché sì, un'ascoltatrice mi ha fatto notare, perché non direttrice? Perché direttrice si dice di solito nelle scuole, sì, giusto? Di solito nei giornali si usa il neutro. Va bene, neutro, quindi non posso chiamarti Lucia, ti chiamo direttore. Abbiamo la dottoressa Anna Zanardi e la dottoressa Ferrario. Conciliare i due mondi, lavoro e famiglia, questo, in questo le donne sono più abili, è un mondo ricarica l'altro, però vorrei fare un giro di tavola, perché sino adesso abbiamo parlato delle fatiche, abbiamo parlato di fatiche emotive, di fatiche fisiche, pratiche, dove sistemare i figli, a chi affidarle. Sottolineiamo allora quali sono ancora per un attimo quello che voi vedete con le vostre ascoltatrici, le fatiche emotive della donna che esce fuori di casa, a volte non è supportata dal partner che dice sei sempre fuori, i bambini crescono, non hanno una mamma, a volte non è supportata proprio dal... Non le viene riconosciuto questo ruolo, come se facesse altro, no? Abbandonasse la famiglia. Ne cito solamente uno, ma voi sicuramente anche sulla base del vostro sondaggio sapete evidenziare quali sono le fatiche emotive più ricorrenti, quelle più difficili da affrontare e da risolvere. Inizierei con te, direttore. Sì. Come prima cosa vorrei far emergere un dato positivo in realtà, e cioè che la gran maggioranza delle nostre elettrici che hanno risposto al sondaggio cercano di e riescono a conciliare i due mondi, innescando una sorta di circolo virtuoso per cui l'energia del mondo del lavoro si travasa in quello della famiglia e viceversa, no? A differenza degli uomini che di solito cercano di separare i due mondi, e in questo per certi versi sono meno ricchi e meno arricchenti le loro attività. E ciò detto, naturalmente resta la fatica, a proposito della quale passerei la parola ad Anna, alla dottoressa Zanardi. Dottoressa Zanardi, a lei toccano sempre l'altro lato della medaglia. Ha visto il direttore come sta? Il direttore è fantastico, dalle buone notizie. E la dottoressa Zanardi tocca fare invece... Noi cerchiamo di sostenere, certo, sviluppare, trasformare. Io non è una psicologa. Ma direi che la consapevolezza di essere interi, cioè questa interità fra lavoro e elemento personale è un punto centrale su cui sviluppare consapevolezza. Cioè è vero che esiste la fatica, ma la fatica è anche generativa, non è semplicemente negativa, se abbiamo la consapevolezza che ci porta ad una visione più ampia, anche a un'inclusione di tutti gli elementi della nostra vita, che è una vita complessa, non è più una vita lineare, per cui ci sta anche che oggi la donna abbia diversi ruoli e diverse possibilità anche di esprimersi. Del resto, come dice un terapeuta molto conosciuto che è Bert Hellinger, non esistono buoni genitori, ma esistono genitori felici, cioè l'elemento della soddisfazione per la propria vita è non soltanto nei confronti dei figli, ma anche per esempio nei confronti del partner, un elemento fondante di una costruzione positiva della propria vita. Se non c'è soddisfazione per ciò che si è, per la nostra esistenza, tutto diventa faticoso in senso negativo e diventa una gabbia, cioè non, certo, diventa una possibilità di movimento. Dottoressa Ferrario. Sì, pensando alle fatiche che si fanno, che si incontrano, c'è anche la fatica, per esempio, di fare i conti con convenzioni e stereotipi, no? E quindi sicuramente questo rischia di fare sentire un po' in gabbia, di non avere tanta possibilità di scelta. Facciamo un esempio, una fotografiamo un'istantanea, insomma. Quello che dicevamo, la mamma, che cioè la donna che... diciamo tra virgolette mette un po' in secondo piano la cura della casa, che non è lì al focolare oggi, è più accettata rispetto alla mamma che esce e che viene vissuta come non curare i figli, no? Questo è uno stereotipo, ecco. Quindi fare i conti con le convenzioni, quello che si dice, e con gli stereotipi, questa è un'altra fatica con cui la donna si trova a fare i conti. Abbiamo lasciato fuori però il supporto, il ruolo del compagno, della donna che lavora. Direi che è confortante. L'abbiamo accennato, ma vorrei capire cosa è uscito dal vostro sondaggio. Questi nostri compagni ci aiutano, sono una ci frenano, ci fanno venire più sensi di colpa? È logico che non si può generalizzare, ma i dati del sondaggio qualcosa di interessante lo dicono. Beh, il 75% delle nostre intervistate si sente fondamentalmente appoggiata dal partner, e quindi anche questo è un elemento innovativo, anche se devo dire che noi che siamo sempre state un po' attente a questo tipo di tematica, quindi abbiamo fatto anche altri sondaggi, nel corso degli anni è l'elemento che più emerge, cioè quanto i partner siano oggi più in grado di supportare le donne. A proposito degli stereotipi, dei pregiudizi, resta invece sempre una frangia di donne che non lavorano, quindi donne che hanno magari effettivamente rinunciato al lavoro e che sono particolarmente critiche nei confronti delle donne che lavorano. Eccoci, siamo tornati insieme, abbiamo Marisa che ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Marisa. Allora, io ho cominciato a lavorare prestissimo. Sì? Ho 62 anni, per cui sono in pensione adesso. Studentessa lavoratrice, mi sono diplomata, avevo, quando mi sono sposata, il mio impiego, un ottimo impiego, e d'accordo con mio marito ho continuato a lavorare. Ho avuto 3 figli. E la mia esperienza mi dice, io sono felicissima, sono stata felicissima, e la mia esperienza mi dice che dovrebbero farlo tutte le donne. Avere un lavoro e crescere contemporaneamente i figli. I miei figli hanno imparato a risolvere i loro problemi giorno per giorno, sono diventati autonomi, bravissimi a scuola, bravissimi nello sport. E quindi, Marisa, una donna soddisfatta, una donna che ha lavorato, e dice quindi il suo messaggio alle donne anche nei momenti di difficoltà in cui sembra che questi due mondi non riescano a convivere insieme, tenete duro perché alla fine le soddisfazioni arrivano. Non ho avuto aiuti da nessuno perché la mamma non ce l'avevo più, la suocera era lontana, per cui mi sono dovuta arrangiare. Perfetto, no? Grazie Marisa, grazie per la sua storia e la sua testimonianza. Andiamo a Roma invece, dove c'è Linda ad aspettarci, 824 0024. Linda, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutte, salve. Niente, io adesso sono in maternità, sì? Facoltativa, col secondo figlio di 6 mesi, fra un mese tornerò a lavorare. L'altro bimbo di 4 anni va a scuola materna e sinceramente non vedo l'ora di andare a lavorare. Linda, ha ragione. Perché, Linda? Tutto dei bimbi che mi piacciono, tutto quanto, ma il discorso di tornare magari a lavorare, staccare dalla vita casalinga di mamma di tutti i giorni, cioè l'avevo già sperimentato col primo figlio, la mattina lavoravo, avevo ottenuto un part-time temporaneo e la sera, il pomeriggio, mi godevo mio figlio, giocavo con lui, cucinavo con lui, guardavo i cartoni con lui. Quindi ero sia contenta la mattina col lavoro, con tutti i problemi, sì, del lavoro, e anche il pomeriggio facevo la mamma e tutto quanto. E quindi adesso questo mese passerà in fretta e tornerà a lavorare, quindi poi a dividersi tra il lavoro e i suoi bambini, e lo farà, mi sembra, c'è una freschezza in Linda. Dottoressa Zanardi. Beh, diciamo che è riuscita a dare senso a quello che è stata una sua iniziale scelta, e questa è anche un'altra cosa su cui ampliare un po' la visione. Certo, se ci focalizziamo solo su alcuni aspetti della nostra vita diventa più difficile, ma se ampliamo la visione e vediamo quanto ogni singolo passo che noi facciamo durante la giornata ha un senso molto più ampio nella nostra vita, e quindi anche le fatiche diventano poi molto più significative e danno una direzione più ampia a quella che è la nostra esistenza, alla nostra e quella della nostra famiglia. Andiamo a Roma, ci aspetta Luisa. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? La mia testimonianza è questa. Io sono una donna che lavora a tempo pieno, ha 4 figli, adesso grandi, ho 49 anni. E quello che mi ha colpito nei discorsi fatti durante la trasmissione è la scelta. La scelta non può avvenire, nel senso che in un momento in cui nel momento in cui la donna deve lavorare non ci sono, diciamo, le possibilità di apprezzare quello che ho sentito fare da molte ascoltatrici, quindi il pensare che i figli possano crescere autonomamente, il fatto di organizzare il tempo in modo no scientifico. Io credo che un figlio deve avere una presenza nei momenti in cui c'è la necessità, quindi emotiva, fisica, quando sta male, quando sono grandi hanno un problema, e tutto questo non può essere inglobato, secondo me, con una vita lavorativa imposta, mentre potrebbe esserlo con una vita lavorativa scelta. Infatti, come diceva il direttore, Lucia Rappazzo. Lucia. Certo, torniamo al concetto di libertà, libertà di essere se stessi, e ognuno di noi è se stesso in modo diverso dall'altro. Sembra banale dirlo, ma secondo me è importante ricordarlo. E quindi giustamente sottolinea la nostra ascoltatrice, quando il lavoro è una scelta, tutto diventa più facile, il punto di equilibrio lo si trova. Dottoressa Ferrario? Sì, volevo aggiungere questo, che anche nel momento in cui il lavoro non è una scelta, che uno è costretto a farlo, la libertà può essere quella di non subire, cioè di non subire, ma di cogliere anche ciò che il lavoro che uno è costretto a fare può offrire, no? Quindi è una libertà di disposizione nei confronti di ciò che la vita offre, ma anche che richiede di affrontare. Noi abbiamo un ospite che è in linea con noi. Io sono molto felice che sia venuta a trovarci, è Fiorella Mannoia. Ciao Fiorella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fiorella, le tue canzoni, grazie per essere con noi. Salti da una tournée all'altro, ma le tue canzoni pongono un'attenzione proprio particolare sul mondo delle donne e sull'animo femminile. Cito ad esempio il titolo del tuo ultimo CD, che secondo me proprio è l'essenza del tema che stiamo approfondendo oggi. C'è questo movimento di dare, no? Tu, tra l'altro, sì, sulla copertina del disco appari proprio con le mani protese in avanti, un fiore tra le mani, un'immagine di grande simbolismo che racconta proprio l'essere profondo di noi donne. Questo movimento di dare tutto al femminile è una risorsa o può anche essere un ostacolo per noi donne? L'abbiamo un po' esplorato in trasmissione, volevo sapere il tuo punto di vista. Ma io penso che, io ho scelto innanzitutto questo titolo perché il Battiato fa riferimento al fiore che sboccia, alla rosa che sboccia, in un atteggiamento appunto di generosità, no? Ci regalano profumo, colori, bellezza. Io l'ho inteso come invece proprio un movimento così, proprio di, appunto, con le mani protese in avanti, come un gesto proprio un gesto di dono. Sì. Cioè, in un momento come questo, viviamo in un momento di tanta paura, no? Abbiamo molte paure addosso, un po' ce le infliggono, sì, però un po' sono reali, molte sono anche indotte, però in realtà ci sono, ecco, fatto sta che le proviamo. Allora, un momento come questo in cui siamo tendenzialmente portati a conservare, no? La paura ti porta a conservare ciò che hai, anche un po' di egoismo, abbiamo paura di perdere quello che abbiamo, ci dimentichiamo appunto questo gesto, che è un gesto che non dovremmo mai dimenticare, perché a volte ricordarci che dare dà più soddisfazione che ricevere, ricordarcelo, se non altro male non ci fa. Senti Fiorella, tu stai conducendo una tournée piena di date, stasera sei a Gallipoli, nei prossimi giorni per tutto il sud, Bari, Catania, Marsala, Palermo, Messina, insomma, il tuo lavoro di artista immagino sia grande, pieno di soddisfazioni, ma anche di grandi fatiche. È un privilegio, lo sappiamo, ma insomma io credo ti ha obbligato a mettere in secondo piano la tua vita privata, o come dice il sondaggio di Psicologia, un artista non separa più lavoro dalla vita, perché il suo lavoro è un po' tutta la sua vita. Come Beh, te la giochi tu? È anche vero, però c'è da dire questo, che noi persone facciamo questo mestiere siamo delle persone privilegiate. Il privilegio più grande che abbiamo a disposizione è il tempo, perché facciamo sì, passiamo momenti, periodi in cui ci svegliamo e non ci ricordiamo neanche dove siamo, però è anche vero che a questo poi susseguono dei periodi in cui abbiamo tutto il nostro tempo a disposizione. E questo è il privilegio più grande, soprattutto io non ho sentito molto i vostri discorsi, mi sono collegata adesso, ma pensavo, ho sentito donne nel mondo del lavoro. Io credo che il regalo, il privilegio più grande che un essere umano possa avere è il tempo a disposizione, che è tempo che dedichi a te stesso, tempo che dedichi ai tuoi figli, tempo che dedichi alla famiglia. Alle persone che ami, certo Fiorella. Alle persone che ami e anche a te stessa. E questo credo che sia il regalo più grande che questo mestiere mi fa, e non mi dimentico perché il tempo a disposizione, anche il tempo, quello che chiamato tempo libero, che sì, è fondamentale per i nostri rapporti. Fiorella, prendiamo, io so che tu devi scappare, ti saluto e ti ringrazio per essere stata con noi, e io siamo quasi praticamente in chiusura, rubo alla Fiorella Mannoia questo concetto del tempo, che secondo me è una chiave per vivere bene, questo tempo che noi dividiamo tra il lavoro e la casa. Fiorella, un abbraccio grande. Oh, grazie anche a voi. E in bocca al lupo per tutto. Grazie, arrivederci. Dottoressa Zanardi, 30 secondi, tempo, ci lasciamo con questa nostra, in questa nostra chiacchierata in cui ci siamo un po' scoperte, abbiamo raccontato le fatiche ma anche la soddisfazione di lavorare, di essere divisa tra questi due mondi. Tempo? Il tempo prima di essere una convenzione è uno stato d'animo. E quindi su questo lavoriamo. Un saluto allora al direttore di Psicologie, questo mensile che si occupa della donna a 360 gradi. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Alle nostre esperte, alla dottoressa Ferrari e alla dottoressa Zanardi. Grazie. Ci risentiamo presto. Appuntamento come sempre per noi domani, dopo il GR delle 11. Avete un appuntamento con me, non scordatelo.